Napoli, ti darà una puntata e ti già ti viene incontro se ti interessa. Se no puoi fare come vuoi, se vuoi te lo do io. Non è che ti do il numero di telefono a conto mio, a me me l'ha detto lui, se ti interessava a chiamarlo. E vabbè, la chiamerà se ne ha voglia, se lo fa testa. Va mia, sarà più di un'ora fa vedere questo. Andiamo. È buona, ma uva di chili? Criatura. Ah, della veranda, la faccio dal pergolato, così. E allora? E che già cosa è? La capodronia è corta. E fanni allora quando ti innazzi, allora quando la chiedi se la mangiano i bisoni. No, non sapevo i bisoni. vabbè, dai. Suspetta che gli dica la carica il numero, con la suspetta lo sentivo più forte, però già lo sentivo anche senza la suspetta, e tutta l'altra voce, boh. Vabbè, c'è la batteria scarica, non è che sia la batteria che è scarica. Può darsi che sia dalla batteria, si non vi leggi a bada, controllatela. No, aspetta un attimo che la cambio. Cambiala a vedere, magari è tutto oscillato. Pulita adesso, un pochettino più forte già ti sento, è più pulita anche, già ti sento più forte, però ti cambia un po' la modulazione, non sembri tu. Come mai? Non è possibile. Eia, ma rigiovanito. Rigiovanito? Addirittura, è ora come ti anda? Buona come modulazione, però è strana. Non è possibile, no? A me mi pare fare un volume basso tu. Aumenta il volume di un maracchino. No, ce l'ho quasi a metà. Aspetta, lo alzo di più. Prova a vedere, 1, 2, 3, prova. Vai a prova. Vedi come modulazione, più giovanile, cosa vuoi che ti dica, più è diversa, no? La classica tua modulazione, è più fresca, cosa come ti dirò più fresca, più giovane, dai, poco parole, ho capito, vabbè, sarà un microfono, no? Comunque sei saturo, Giovanni c'è il tono della voce. E meglio così, perché mi hanno sempre ascoltato un po' di anni. Ah, è Giulio. Sei saturo, Giovanni. Saturo sono. E come mai sono saturo? Non è possibile. Bravo, è lì che sia, come fa? Attore, e beh, hai visto, non è così, non ricapalisce questo tono di voce, così. Ma mi fai quello, non è che sia voluto, è leggermente saturo, fa la pena, la verità sei comunque. Ciao Marco Condor, come mi ascolti di radio con questo microfono? Bene, bene. Io sulla ho modificato questo è 1,100 m, capito? Ma già va bene, già va bene. Ma tu è stato bruschettato. Gli avevo già capitato. Stavo fischiando, adesso no però. Adesso è perfetta, una modulazione. Io sulla provincia di... Ciao Mari, ma che ci vuole dalla Sicilia? Certo, tu fossi, fai una lavona, capita, un trombone. Magari perché anche ce l'hai da molto spento, così, non l'hai acceso stasera, a scaldare. Attenzione, Franco, Sud Italia c'è ascolti Sassari. È soglio. Otto o è soglio, o c'è 4 kW sotto. Città di Sassari. Buongiorno, buongiorno, buonasera. Buonasera, chi chiama Carmelo Formaggio, coordinate della Canda Sicilia. Attenzione, il canale di frequenza. Chi chiama Carmelo Formaggio sulla terra canda siciliana, coordinate provincia di Ragusa. Ciao, ben sentito Carmelo Formaggio, qua ti... qua modula stazione Gufo dalla città di Sassari, Sardegna, Cappa del Rogero, arrivi a Bomboletta. Non ti sente. Non mi colpi. Arrivano 25 qua, arriva da questa zona. Marco, prova tu a chiamarlo, questo qua, a vedere se ti ascolta. Qui arriva basso. Attenzione Ragusa, ti ascolti Sassari, attenzione Ragusa, dai Roger, ti ascolti Sassari. Buongiorno, buongiorno, avanti amico di Sassari, amico di Sassari, isola della Sardegna, buonasera. Ascolti Carmelo Formaggio nella Costa Ragusana. Carmelo Formaggio si trova sulla Costa della Ragusana, provincia di Ragusa. Ok Carmelo, salutoni, 73-51, ti volevo per te Giulio Dollaro dalla città di Sassari, ripeto, Giulio Dollaro dalla città di Sassari, avanti si è copiato K. Ma non è buona la popolazione, oh! Ciao, Giulio, buonasera Giulio, coordinate Sassari. Carmelo Formaggio qua sulla provincia di Ragusa di salute. Ok, ecco, tra cambio di saluti, una stretta di mano. Ti mando avanti l'amico Antonello, sempre da Sassari. Avanti Antonello, con pugno per Carmelo di Ragusa. Antonello. Ma la leggi. Sono qua, sono entrato, stiamo vedendo la posta, roba in frigo, più vai qua. Sì. Avanti Giulio, io purtroppo l'amico di Sassari non lo sento. Non sento l'altro amico che modula lì nelle tue. copiata a me. Ti è copiata, ti mando avanti Graziano, attenzione Carmelo, ti mando avanti Graziano Buffo, sempre dalla città di Sassari, avanti Buffo per Carmelo. Ciao Carmelo, ben sentito, se mi scusi, stazione Gufo dalla città di Sassari ti cordializza, Cappa del Rogero, vieni avanti, sei copiato. La propagazione che avrai viene, poi non è molto buona, verso, da qui verso là non è molto buona, mentre invece da là verso qui è migliore. Attenzione Carmelo, dai Rogero sei copiato Graziano da Sassari. Negativo, negativo Giulio, io al Graziano non sono potuto tirarlo fuori. L'unico, l'unico che sento sei tu, capito Giulio? L'unico che ascolto nella isola della Sardegna di Sassari sei tu quello che riesco a tirare fuori. Cambiamo formazione qua, naviga sulla costa ragusana, direzione Siracusa. Ok Carmelo, ok, mi dispiace, tu non riesci ad ascoltare Graziano, pazienza, evidentemente la preparazione per lui non è così buona, eh. Vediamo un po' se c'è Marco, Marco ci sei? Marco non c'è, pazienza. Va bene Carmelo, io ti saluto, vai, intanto è inutile fare questo, perché qua c'è il questore locale, però se tu non li ascolti, purtroppo non è possibile continuare. Ti saluto anche da parte di loro, cioè da parte di Graziano e di Antonello. Ciao Carmelo, salutoni, alle prossime, ben ascoltato, ciao, riprendi. Ciao, buongiorno, ciao Giulio, ti saluto, dai, buona serata, buona fine settimana. Saluto pure a Graziano, visto che io purtroppo prima non so per dire perché non mi è arrivata sulla mia portante. Ragazzi, vi saluto in quelle coordinate di Sassari. Carmelo Formaggino sulla, sulla provincia. Graziano, l'ho sentito. Versione Cappa che l'ho sentito. Dipende, a momenti, anche stamattina già mi copiavano. E a momenti mi copiano, a momenti io dipende da, da, dalle onde, da. Dipende da, da come pompa uno, deve pompare, pompare. E attore anche troppo quello che fa, guarda la butta male come ti faccio, sì, dunque già, già lo sai, è anche troppo, oh no. Ma niente, sì, già lo so, no, io già lo so bene, arriva se alle 9, a volte 9:10, a volte si abbassa anche a zero, ma già lo sento io, lui senz'altro lo sentirà a me, perché... sono liscio come l'olio, senza lineare, senza niente, capito? Eia, ma io a lui lo ricevo bene, però... Ma c'è la birra che ti aiuta! Lo parlo, lui non mi... Almeno mi gira, ma la birra, mi aiuta! Fuggi, devi considerare anche quello fuori, è pulito, è liscio anche il mio, non è che puoi pretendere più di tanto, per dirti, io avanti ieri stavo parlando con l'Austria, con Charlie Brown, io e poi anche Gian Maria, e poi anche uno da Cesena, era meravigliato perché mi copiava a bomboletta, anzi mi ha fatto i complimenti per la stazione, gli ho detto se vedi questa stazione ti metti le mani in testa, ma lo sa che c'ho l'antenna tutta messa male. Io già, perché già è positivo, c'è qualcuno dentro di bere la birra, così me la esco forte, avanti. Adesso ho capito, là, io grazie perché la voce mia era più giovane. Quando mai non ti sei avvisato che ero io, non era Gian Maria, ma insomma, grazie, che buona piombo. Perché tu c'hai molte volte una timbrica uguale a Gian Maria, però allora dimmi se mi sbaglio. Ma no, così no, io ho riconosciuto subito, l'ho anche salutato poco fa, figurati. Quindi lo riconosco subito a Giulio, a Gian Maria, siamo due cose totalmente diverse. eppure a me mi confondo, non è la prima volta e mi sono confuso. Per me sembrava la voce sua. Poi mi ha detto che era in campagna. Si guarda il gioco che è in campagna, Dio Maria. E dunque, e poi già l'ho sentita anche io poco fa, quando stavo modulando con l'uranio, e che l'ha soprammodulato, che stava facendo cosa. Oh, non è così, Giulio. Allora, stavo aggiustando un baracchino, che ce ne, mi faceva un figlio. Di 5 minuti e non mi ha risposto. Ci ha passato Siracusa. Mio compare Franco, mio compare Franco, espresso dell'asilo. Ascolti Carmelo, forma asilo sulla provincia di Ragusa. Attenzione Carmelo, mi ascolti. Io sono punta qui, in punta. Ma come ho facendo io di qui? Adesso provo a accendere lo zodiac a vedere se mi sente con l'altro, con il microfono MP4, a vedere se mi sente. Attacca, attacca, attacca, bastiamelo, si sente come si deve. Cosa sei? Sei sceso a fuoco almeno. Carmelo! Lo prete strano, c'è. Stamattina Giulio c'era su 45 il Congo belga. Santiago dove sta arrivando, Com'è questa radio, Antonè? Diversa è da quella di prima, dimmi com'è. Questa è diversa. Buttala via, buttala via. Via Gio Maria, via Lurica, via Gio Maria. Ciao, ciao Gio Maria. Ma è com'è? Diversa in che senso? Più bella o più brutta? Bella, la verità è una modulazione bella. Sì, ma io voglio sapere se è più bella di quella di poco fa o più brutta di quella di poco fa. No, è leggermente meno amplificata. È amplificata, già lo so, è MP2-5, è un grido, è amplificata, questo sì, ma è più chiara, più forte, più debole, com'è? Ti ho detto, meno amplificata di quella di poco fa, la verità, però è chiara. Ah, ho capito, meno amplificata, avevo capito male io, vabbè, avanti Gio Marì. Buonasera, circolare. Subito. E portaci anche la sedia, però il piatto, bene così. Hai sentito che stavo poco fa, mi stavo facendo passare per te con Graziano e non capiva niente. No, lo ha sentito solamente, ti ho detto che sta sentito solamente, lo ha sentito. E Graziano sai com'è. Ma già riesce a capire ancora, vero Graziano? Ciao, riprendi, chiudo. Grazie. propagazione arriva dappertutto, basta che ci sia la propagazione, no? Quello già lo sappiamo. Alle volte non... arriva dall'altra parte della terra, in Australia o arrivare in New Jersey, non è facile di me. Un'altra località americana che normalmente, quella deve essere stata anche una località dove c'è gente di colore, boh, non lo so, che adesso non mi ricordo nemmeno, bisogna che guardi la cartolina per ricordare. Nuda, chi se ne frega, cosa vuoi che mi metti che cose, lasciamo perdere. Chi mi vuole ascoltare mi ascolta, grazie, anda per battessi, non vi mezzo nuda. A padre Roger, avanti chi vuole entrare. Avanti chi vuole entrare, c'è qualcuno? Gianni doppio rue, ciao Gianni, mi copi? Attento Gianni, sei tu? Ciao Gianni, sta arrivando bassissimo, c'è il QRM, molto QRM, la propagazione è tremenda. Sta arrivando che quasi non ti senti. Magari non è con nessuno, è qualcuno che di propagazione, allora è per quello che si sente fischiare, capito? Perché ci sono gli accavallamenti della propagazione, soprattutto gli apportatori, se la propagazione è sicuramente di gran lunga superiore rispetto a Sassari, lì col mare, con lo specchio del mare che ci fa da piano riflettente, il vantaggio è grandissimo, capito? E allora va bene lo stesso. Non è un problema già, se mi stai ascoltando e se non mi ascolti già nel frattempo ti avvicini e ci sentiamo ugualmente, non è un problema. Già ti ho sentito Gianni, gava gava. Ehi, quanto sta avvicinarsi, perché c'è un mese di QRM, capito giù. Così, comunque già stai scendo abbastanza bene tu. Sto uscendo con 4 watt, con il presidente sto uscendo, 3,5-4, una cosa così, il presidente uscito, quello stazione base, quello grande, la stazione base senza alimentatore, questo ci attacca direttamente alla presa, capito? E con M+5, dunque va bene così. Andare, dai, non è un problema. Stava raccontando che lui è solo, è zittello, e gli ho detto di venire in città che ce ne sono di donzelle in cerca di uomini. Gli ho detto, comprate gli uomini, esistono più donne che uomini, e sono 2 o 3 volte più degli uomini le donne. E quando me lo ha dato la bollastra. Vabbè, non va a pensare, se gli interessa già se la cerca, non è un problema, ci mancherebbe, già se la trova, se vuole, solo che se aspetta ancora un po', quando della zecca, quando si deve chiudere tutto, no, non va bene, perché mi sembra che ha roba di 55-57 anni, una cosa del genere, forse anche 58, non lo so di preciso. 58 fra poco, è un anno quasi più grande di me. Perché me l'ha detto, gli ho detto questa mia io, e lui mi ha detto la sua, solo che lui mi ha detto che scrive poesie, e se tu logicamente parti con questa partenza che è una femmina, gli dici poesie, la giudizio, chi te gliela rifatti e comincia a currire, devi essere più vivace, allegro e più forte nella mischia, ma non con le poesie. Chi è che scrive poesie? Uranio! Adesso scrive poesie, così è. cazzo va? E il giorno già te lo spieghiamo. Ehi, Giulio! Ok, ciao Marco. Sì, vabbè, lo vedo a lui. Già è grande, già saprà lui quello che deve fare per se stesso. Noi non ci dobbiamo intromettere in queste cose. Oh, grazie, preghiamoci. Già saprà lui quello che dovrà fare. Troverà prima o poi l'anima gemella e si sistemerà anche lui. Non ci sono problemi. E poi se ancora è così, vuol dire che non è interessato ad avere compagnia. E va bene lo stesso. Se va bene a lui, figurati se non va bene a noi. Vero Marco? Eia. No, era così, una riflessione. Antonello, ci sei? Marco, tinteggiato hai! Tinteggiato? Ma stavi levigando stasera, oh, non eri tu, non me lo ricordo. No, negativo, non ero io. Ah, ma allora mi sono sbagliato, sono tu, Giulio, non mi ricordo chi è che mi ha detto che stava carteggiandosi le finestre. Gianni, ancora basso basso sei, Gianni, avanti, ma come mai così basso ti sento stasera? Hai le buone vitamine sotto? Io già non ne ho mai visto di quei pesci quando pescavo io. Io le ho viste sempre al mercato e basta, così attaccate alla lenza da parte mia non le ho mai visto, perché non ci sono mai andato a pescare. Io vado al mercato, metto 10 euro attaccata alla lenza, così mi avvicino al banco dei pesci e quello va male, detto, come si attacca subito, una cosa impressionante, oh Marco. No, ma io andavo a pescare, ma non prendevo roba come la prende lui. Lui deve avere anche buccio. Beh, ci vuole intanto capacità e poi anche, diciamo, una buona dose di fortuna, ci vuole, perché sennò non c'è niente da fare. Io conosco gente molto esperta e che sa pescare veramente, che è una vita che va a pescare, eppure ci sono dei giorni che fanno cinecca anche loro, perché non ce n'è. Però ci sono altri giorni che magari te ne portano 20 kg di polpi, tanto per fare un esempio, o anche di più. Perché va a una piccolissima barchetta, così si allontana un pochino, si allontana e si fa delle pescate non indifferenti. Ma l'altra volta mi ha dato un dente, cioè sarà stato, io penso che avrà pesato almeno 2,5 kg, 3 kg, mi ha dato un dente, cioè se che ti puoi immaginare, pesca e come pesca. E tante altre volte magari è successo e non c'è niente. Un'altra volta ha pescato roba di 30 kg di polpi, poi alla fine cosa ha incominciato a distribuire un po' a tutti, a momento rimaneva lui senza, incredibile, però la generosità dell'uomo alle volte ci porta anche a quello. Avanti Marco. Capo, ho capito. Vabbè, io rilancio Giulio e rimango in quell'X. Casomai rientro più tardi, forse, la vediamo. Riprendi Giulio. Ok Marco, va bene, tanto nel frattempo ti saluto perché io penso che tra un po' qua mi chiameranno per la cena, sono le 8:15 circa, perciò intorno alle 8 sicuramente dovrò andare a cenare. E allora grazie, dimmi. Ciao Marco, alla prossima. L'ultima volta che sono andato a pescare con la canna io insieme a amici, di andare a pescare, la verità non mi è mai interessato, i pesci vado, li compro e basta, non se ne parla più. Sì, indubbiamente pescati sarebbe una bella soddisfazione, sarebbe indubbiamente, questo lo so benissimo, ma io mi ricordo quando effettivamente negli anni d'oro, diciamo così, della frequenza, quando si parlava con i pescatori eccetera, tu pensa che c'erano alcuni pescatori che mi invitavano sempre ad andare a Porto Torres la domenica mattina, che mi avrebbero dato tutte le domeniche, mi avrebbero dato la pescata, cioè il pesce eccetera. Ci sono andato due volte, ci sono andato a Buono, non sono andato più, perché mi ricordo c'era un certo, aspetta come si chiama, Danilo, no, l'altro era R6, uno era R6, l'altro è Danilo, e mi davano la pescata, allora ci hai buttato un'ampulla di gogna che se l'hai buttata Danilo, siccome so che lo beveva molto volentieri, e mi aveva dato un po' di pesci. Poi la settimana successiva non ci sono andato più da lui, sono andato da un altro, poi non sono andato più da nessuna parte. Non mi sembrava brutto andare lì le domeniche per prendere il pesce, andare a Macate, me lo compareggio e basta, non se ne parla più. Anche se mi invitavano loro, mi pregavano addirittura di andare, ma io non ero capace di approfittarne, grazie. Ciao, anch'io anni indietro andavo, quando pagavo, aspettavo quando rientravano le barche e lo compravo, però noi me lo regalavano, c'era anche gente che conoscevo, ma di qua, prima lo prendevano a cavano le borevinti più fa palleggia le borse saleggi deve prendere tutta la coppa d'acqua, non è come tanti anni fa, capito? Giulio. Ehi, ciao già. No, a me me lo regalavano proprio, no, ripeto, mi pregavano di andare, perché cosa facevano? Loro lavoravano tutta la settimana a bordo, erano imbarcati su una macchina, su una nave, su un peschereccio che appunto era il loro lavoro, no? Sotto le dipendenze di altri. Però la domenica andavano con la loro barchetta, andavano e si facevano la pescata, dice guarda che ne prendo talmente tanti che poi li devo anche buttare, ma te vabbè, ma io non ero capace insomma di abusarne, di approfittarne, e allora non ci sono più andato. Avanti Gianni, ben ascoltato dopo un anno. Allora, cosa ti credi che sto sempre alla radio a ascoltare dei imbambimenti? Allora, capito, io entro solo quando ci sei tu, mi e qualcun altro, poi non chiamo più, capito, il resto sono rimambiti. Vabbè, e cosa ci vuoi fare già? Siamo quattro gatti, anzi, forse siamo due gatti, perché non c'è più nessuno. Quindi io, Graziano e Gio Maria facciamo le serate al baracchino, anche tre ore ogni serata, o quasi ogni serata. Però gli altri, una volta ogni tanto, così qualcuno si fa sentire e basta. Se la gente si è stancata, purtroppo è così. Va bene, dai, riprendi, fai girare per Graziano, vai. Sono andatomi a chiedere un controllino, ovviamente poi vado via nonno e sai com'è, quando poi entrano testi di cazzo ne succedono anche peggiori, mi dispiace, tutto lì. Saluto Graziano, ciao Graziano, se mi stai ascoltando ti rilancio, ascolto il tuo passaggio e poi saluto, avanti Graziano. Ciao padre Rogero, ehi, allora ti copri abbastanza bene, salutoni ricambiate al centro anche la parte mia, ok padre Rogero, già ti sento abbastanza bene, chiaro, pulito, eia, vabbè anche io adesso intanto devo chiudere che devo fare cosa qua, ne approfitto a salutarti, ciao, alla prossima, riprenditi da Giulio. Ok, ciao, grazie, allora, salutoni, ci sentiamo. Molto bene Gianni, non ci sono problemi, sempre la grande, Santiago Altissimo, 9:15 in questo momento, la radio 5 è ultima, nessun problema, avanti già. Dimmi il pace, sto usando sempre col finalone, ogni tanto faccio qualche riex, attacco il Lincoln e vado fuori a fare il matador nella frequenza e via. Sto finendo quello di Pinomi, tra un po' di giorni termino quello di Pinuccio e poi la notte sul Tatti chiacchiererò con lui, è giusto un'altra soddisfazione, tutto lì giù a te. Ok, anch'io sono da un po' di tempo adesso che non lo sento, l'ultima volta che l'ho sentito era parecchio tempo, saranno almeno un paio di mesi fa come minimo, forse anche di più, però in banda laterale, perché in AM non lo sento, lui non sente a me, in banda laterale invece riusciamo a farci sentire l'uno con l'altro, capito? Nonostante che io vado liscio e lui magari mette 180 watt o una cosa del genere, però diciamo che meno o male qualche cosina riusciamo a capire, no, non ci sono problemi, anche se basso però si capisce abbastanza. Va bene così già. Come vai tu tutta questa assenza? Lavoro, impegnato, sì? Io non sai, io sono sempre carico di lavoro, no? C'è da fare, a me non mi mollano mai. Se avessi soldi quando sono le chiamate sarei ricco sfondato. Però non è quello. E via. Dopo è un periodo, già lo sai, che bisogna fare tutto per tutti. E via. No, sono generalmente in linea di massima sono contento, nonno, c'è da dire, sempre a progettare finali audio ovviamente e di trasmissione, sempre finale audio praticamente quello che mi dà mercato e che vendo. poi oggi bisogna soprattutto accettare tutti i generi di lavori che ti escono, sia con le apparecchiature che fai tu, e poi invece trasmissione, TV, eccetera, eccetera, tutto, bisogna prendere tutto, non bisogna tralasciare niente, perché intanto se no poi si finisce, capita che uno magari può subire un po' di crisi, perché purtroppo oggi la crisi è mondiale, non è solo nazionale, addirittura è mondiale. Vabbè, tu mi stai dicendo che stai lavorando, buon per te, sono contentissimo per te, figurati, ci mancherebbe altro. No, io non ho fatto più niente, lo sai, no, ormai mi ero ritirato, qua cosina così mi faccio per casa e basta, ma qualche lavoretto proprio tanto per passare qualche giornata, niente di più, capito? Sì, potrei fare anche qualcosina per qualche amico che se me lo chiede, se me lo chiedesse, però non più di tanto, non più di tanto. Tanto mi sono anche cancellato, perciò non potrei nemmeno più farne, capito? O già, ma finché si tratta di lavori personali, quello non, nessuno me lo può proibire, capito? Ma per gli altri no, perché non sarei in grado più di fare fattura, non sarei più in grado di fare niente, perché ormai ho abbandonato il mestiere, ho abbandonato il lavoro, ho chiuso, nonostante che la falegnameria ce l'ho sempre, al completo, il magazzino è mio, l'attrezzatura è mia, dunque. Quando ho necessità di farmi qualche lavoretto per casa, vado, me lo faccio e basta, capito già? Ma fai bene, giù, non sono tipi a tenere attività aperte, fai bene. Io mi appoggio qua e là e mi districo benone, però ti garantisco che ci vuole un sacco di soldi e i problemi subentrano. Subentrano. Che ti rompano le scatole, in poche parole, no? E così giù. Così giù. Ormai hanno rotto le balle. Hanno rotto le balle, hanno rotto. E che bisogna fare? C'è poco da fare, vedi che non fanno altro, che tutti quanti dicono sempre le stesse cose, questi bastardi politici, però fatti concreti non se ne vedono, non se ne vedono assolutamente, c'è sempre più disoccupazione, sempre più negozi che stanno chiudendo, ma non è possibile, anche ieri hanno fatto vedere una schermata di Milano, proprio di Milano, l'altro giorno avanti l'hanno fatto vedere di Torino, tutte le serrande abbassate, tutti chiusi, non è possibile, a Torino addirittura chiudono 16 negozi al giorno a Torino, ti puoi immaginare, a Milano poi non se ne parla, a Milano è una cosa, guarda, impressionante sentire e vedere tutto quello. Io mi chiedo questo, ma se continuiamo di questo passo, come facciamo poi da qui a un po' di anni, visto considerato che tutti chiudono, allora non avremo più niente, caspita, addirittura anche le panetterie stanno chiudendo, ma non è possibile, ragazzi, dai, e questi, ragazzi, stanno solo pensando sempre a aumentare, adesso voglio riaumentare l'IVA non è solamente l'1% così, ma l'1% poi si ricade su tutto quello che compriamo, e poi quando lo moltiplichiamo altro che l'1% aumentato, speriamo che non lo facciano, anzi dovrebbero abbassarlo. Io se fosse stato io un parlamentare avrei proposto al 15% deve essere l'IVA e anche di meno, perché il governo incasserebbe di più, perché la gente comprerebbe di più, perché avrebbe i soldi per poterlo fare, mentre invece in questo modo più aumenti meno soldi alla gente e meno incassa lo Stato. Non è che ci vuole poi tanto a capirlo, eppure questa gente non gliene frega niente, pensano alla loro diaria e basta, al loro stipendio e ciccia. E giù sempre così è stato. È stato sempre così. È inutile cantare tanto, il corso rimane sempre chiuso in quel range, lo sai che sono ladri, buon punto, no? Ma è inutile stare lì, no? Io non commento più niente, no? Ormai lavoro e basta, no? Quello che ne esce mi prendo, pago chi devo pagare, pago quello che devo pagare, quello che riesco a rubare lo rubo anch'io e poco si ruba, cioè un artigiano può rubare molto, ma molto poco, o già, no, non è che sia, però voglio dire, cioè non è che se uno riesce a levare qualcosina così che risolve il problema lo risolverebbe se ci fosse meno tassazione, caspita, siamo arrivati al 53%, ma non è possibile che uno debba lavorare 7-8 mesi per lo Stato e gli altri rimanenti 5 mesi, 4 mesi che ti rimangono per affrontare la spesa e la sopravvivenza di tutto un anno e soprattutto anche le spese di laboratorio eccetera, perché non è solamente le tasse, ma poi durante l'anno ci sono anche le spese e la corrente elettrica e le riparazioni e ti si guasta una presa e ti si guasta uno strumento e ti si guasta un utensile, insomma c'è sempre da spendere, questo loro non lo mettono in preventivo, già lo sanno, sì, maledetti, mica non lo sanno, altro che se lo sanno, solo che non gliene frega niente, pensano a se stessi e basta, cioè lo vedi come si azzuffano nella politica, per avere sempre una poltrona più comoda, loro cercano solo quello, il loro obiettivo è quello, farsi sempre una poltrona sempre più semplice, più comoda. Prima e basta tutto lì. E beh certo, quello è ovvio. prima magari si poteva anche fare, cercare di fare qualche ora di straordinario, che ne ho fatto tante ore di straordinario, se io dovessi mettere insieme tutte le ore che ho fatto oltre l'orario normale di lavoro, guarda, non ho fatto 60 anni di lavoro, ma ne ho fatto come minimo 80 anni di lavoro, mettendo insieme tutti gli straordinari che ho fatto, che non avrei dovuto fare per lavorare in maniera molto ma molto normale, e invece caspita, una vita intera di sacrificio. Comunque non me ne pento, non me ne pento, perché ho lavorato per me, le soddisfazioni me le sono tolte, i miei obiettivi li ho raggiunti, dunque ho fatto grande la famiglia, ho fatto laureare mia figlia, di conseguenza non ci sono problemi, la casa me la sono fatta, il magazzino ce l'ho, non è un problema, qualcosina mi è rimasto da parte, e allora ciccia, però se continuiamo di questo passo la cosa non è che funziona poi tanto bene, vabbè, c'è sempre la pensione, sia ben chiaro, però tu sai benissimo che alla pensione bisogna sempre aggiungere, e questo è normale, no? Tantissimo, ma oggi però non è più come ieri. Oggi c'è più soltanto della pagnotta giù. Sì, infatti, oggi bisogna fare attenzione anche a quello che spendi per vivere, per mangiare, eccetera. È ben chiaro, una volta se ti potevi comprare le scarpe da 200 euro, oggi si è costretto a comprare da 70-80 euro, 100 euro massimo. Perché? Perché purtroppo la situazione è quella che è. Prima allora si poteva fare di più, oggi non si può proprio più fare, e se uno lo può fare non lo fa, perché? Perché ha paura del domani, perché la situazione si sta mettendo male, male veramente, non è uno scherzo, speriamo che riescano a risolvere la situazione questi politici di cacca, perché sono politici di cacca, tutta gente incapace, soprattutto disonesta, proprio disonesta nel vero senso della parola, perché già lo vedi, vanno lì in Parlamento oltre allo stipendio da nababbo, e si prendono, poi rubano anche, no, non è possibile, boh. E poi si lamentano, con tanto di faccia tosta si presentano in televisione lì a dire, a fare, a promettere, tutti sono d'accordo però, tutti sono d'accordo, dicono questa cosa, mancanza di lavoro, bisogna cercare di rilanciare il mondo del lavoro, bisogna aumentare le pensioni, bisogna aumentare gli stipendi degli operai, però tutto rimane come prima. Poi dopo due giorni, tac, un'altra tassa in più, aspetta, adesso mi arriva la tassa non detta, che la Taras, che aumenta quella, cioè ci mettono quella, poi c'è il discorso IVA, speriamo che non la mettano, poi c'è il discorso IMU, chissà se lo tolgono veramente, chi lo sa, fatto sta tutto il campazionario ancora. Oh, loro intanto finanziamento ai partiti si sono allungati il tempo, poi se ne parlerà. Quello era importante, capisci? No, lascia stare. Va bene, saluto e voglia. Se no poi mi incazzo. Lasciamo stare, a me parlare di politica mi gira le scatole. Già mi girano da sole, figurati con parlare di politica. Meno male che sto bene, sto tranquillo oggi, se no mi gira, capito? Proprio mi fa vomitare la politica. Saluto giù. Ti auguro una bella serata, saluto la famiglia e tante belle cosce, mi fate piacere ascoltarti come al solito, niente, ci sentiremo in seguito, ok? Ok, già, ciao, salutoni, grazie per essere stato a salutarmi, così abbiamo scambiato anche due chiacchiere, grazie anche per il piccolo QSO, fate sentire almeno intanto, quando mi senti fai un piccolo break, grazie, che non, così mi fa piacere discutere con te anche. Ciao già, salutoni, saluti anche a te in famiglia, alle prossime, dai, ciao. Ok, ciao, ci sentiamo, se non entrano dei salami io sono felice di salutarti, capito? Salutami Claudio se lo senti, salutami gli altri, alle prossime, ciao. Ok, ciao già, Claudio ormai ha abbandonato la 27, di tanto in tanto entra, ma molto, ma molto raramente. Lui dice che non ha più niente per la 27, quando entra magari con una direttiva, perché nell'antenna più dalla 27 entra con un'antenna radioamatoriale, dunque non lui più interessato quanto sembra alla 27, comunque se lo sento non mancherò di salutarti, non ci mancherebbe altro. Ok, ti ringrazio comunque da parte sua, dai, ciao Gianni, salutoni ancora, alle prossime, un affetto alla mano e un abbraccio da amico, ciao ciao Gianni. Ciao, che siamo giù, ci sentiamo, tante cose, bella, ciao. Perché ma proprio in questo momento mi ha chiamato mia moglie per scendere giù a cenare, dai. Ma boh, tu sei rientrando? No, negativo, no, io me ne sono andato tutto quanto a pescare. Ah, ho capito, guarda che ci deve essere Gianni dalla parte di Plataola, non so se vi siete sentiti. Ma sì, ci siamo sentiti adesso, lo sto raggiungendo, dai. Appunto, no, perché è andato poco fa, stavo andando a pescare. Era, l'ho lasciato, ci siamo lasciati quando lui era a Platamora, dai. Poi non ci siamo più sentiti perché lui stava chiudendo. Si vede che ti è fermato lì a pescare. Ma boh, ciao Giuseppe, ci sentiamo, dai, ciao ciao. Ciao Giulio, buona carica.